si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Si può fare di Radio 24 e un buongiorno a te Carlo. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti in questa nostra Si può fare domenicale. Si può fare domenicale che, come sempre, prevede la possibilità di indovinare qual è stato il personaggio della settimana, persona, avvenimento, evento, qualcosa che sia successo nel corso della settimana e che ovviamente sia un si può fare, quindi rappresenti una buona notizia. E per indovinare bisogna chiamare l'800 24 00 24. Ovviamente noi vi chiederemo di argomentare perché avete scelto una persona, un evento. Non voglio fare distinzioni, Carlo, perché poi come dici si attaccano, no? È vero, come dici sembra subito un indizio. Precisamente, allora diamolo noi il primo vero indizio per indovinare il personaggio della settimana. Vai. L'indizio è questo: è sempre aggiornato. Quindi il personaggio della settimana è sempre aggiornato. Se vi viene in mente qualcuno, telefonate all'800 24 00 24 e noi appunto vi faremo concorrere per portarvi a casa un libro, come sempre in questo periodo, un libro che vi verrà recapitato direttamente a casa. Diciamo già questo perché poi in tanti ci chiedono allora sarà il centralino stesso a mettersi in contatto con voi se indovinerete e chiedervi tutti i riferimenti, quindi abbiate pazienza, da lunedì il vincitore viene sempre contattato. Bene, detto questo, e caro, poi come da tradizione direi che proroghiamo per i ritardatari la nostra richiesta di ieri, ovvero se avete dei nomi da proporre per il ponte Morandi che verrà inaugurato, noi siamo ben contenti di fare da collettori. Ieri ne abbiamo raccolti tantissimi di nomi, se anche oggi qualcuno vuole proporre, sia scrivendo SMS o WhatsApp, sia telefonando, noi siamo ben contenti. Esattamente, poi c'è il 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e poi come ogni domenica tocca a te Carlo con il consiglio di lettura divisione. L'ho detto diverse volte che durante questo lockdown è stato a tratti molto difficile leggere, per mancanza di concentrazione, per ingolfamento da pensieri sull'avvenire. L'incertezza della fase 2 non migliora la serenità della lettura, almeno non per me. Quindi oggi vi consiglio dei libri adatti o che si possono spizzicare. Parto da La parola magica di Anna Siccardi, NN Editore, che è un romanzo, ma sono 12 storie che si incontrano a tratti, un po' come America Oggi di Altman o come ciclicamente nei film avviene, non so, penso a Magnolia di Anderson, penso a Babel di Inarritu. Deve un po' piacervi il genere, a me piace. Anna Siccardi scrive molto bene ed è una splendida sorpresa. Volendo, il libro intero si legge in 3 ore a un ritmo invidiabile, cadenzato dal programma dei 12 passi degli Alcolisti Anonimi. Poi Paolo Giordano, lo scrittore che conosciamo per La solitudine dei numeri primi, ma che ha anche un dottorato in fisica, ha scritto un instant book di 60 pagine per Einaudi. Il titolo è molto chiaro, Nel contagio, che ovviamente parla di oggi, anzi ormai di ieri, ma i suoi ragionamenti scaturiti dalla pandemia mi paiono più che utili, tipo: se noi giovani e sani ci rendiamo più vulnerabili al virus, lo portiamo automaticamente più vicino agli ultra suscettibili, cioè gli anziani e i più deboli. In un'epidemia i suscettibili, cioè noi, devono proteggere se stessi anche per proteggere gli altri. Siamo un cordone sanitario. Dunque, nel contagio, quello che facciamo o non facciamo non riguarda più esclusivamente noi. Di questo non vorrei dimenticarmi nemmeno quando sarà finito. E infine l'immenso e straordinario Gospodinov, Tutti i nostri corpi, edito Voland. Il narratore bulgaro ci delizia con 103 storie super brevi, così recita il sottotitolo, che a volte sono degli aforismi, delle riflessioni fra l'ironico e il grottesco, dei frammenti, in cui attraverso l'onnipresente sentimento della malinconia ci si interroga su un futuro sempre più difficile da comprendere. Faccio un esempio brevissimo. I giardini zoologici dell'Europa dell'Est assomigliano ai quartieri periferici dell'Europa dell'Est. dormitori di cemento. Che bisogno c'è di affibbiare il socialismo anche agli animali? Le microstorie di Gospodino fanno la potenza di rallentare il tempo, quindi, come per certe droghe e certi tranquillanti, è meglio non abusarne. Leggerete poco, rifletterete tantissimo. E se invece preferite qualche pillola, no, da guardare, potreste dedicarvi ai Memory Scapes di Home Movies. C'è Paolo Simoni, buongiorno con noi, buongiorno. Che è l'ideatore di questa piattaforma nella quale sono stati raccolti tanti piccolissimi video che riguardano, no, le persone normali, la vita di tutti i giorni, che sono dei periodo però specifico che va dagli anni 20 agli anni 90, no, del Novecento. Sì, all'incirca. Si tratta proprio di frammenti di sguardi tratti da film amatoriali, film privati che gli italiani hanno girato nel corso del Novecento in Super 8, 8 mm, 16 mm, 9 mm e mezzo, i cosiddetti formati ridotti. Home Movies per quasi 20 anni ha raccolto e archiviato questi materiali, catalogandoli, digitalizzandoli. Voi avete un archivio nazionale dei film di famiglia, incredibile. Esattamente, a Bologna. A Bologna. E questo lungo lavoro di archiviazione, che nel corso del tempo ha dato luogo a tanti progetti, oggi è online, almeno una parte, un'ampia selezione, con la possibilità per chiunque, per tutti gli utenti che si collegheranno a homemovies.it, di accedere a questo patrimonio, di avere degli sguardi sull'Italia, sulle trasformazioni dell'Italia, il paesaggio, come anche riscoperta di questo paese perduto, no? Filmato e un po' dimenticato del XX secolo. Che cosa ci raccontano un po' di questi filmati dell'Italia, di come è cambiata? Questi film ci mostrano prima di tutto la vita quotidiana, una vita che si svolgeva con una velocità diversa dalla nostra. Il Novecento, in particolare nel dopoguerra col boom economico, è anche il momento in cui si affermano certi status, gli italiani acquistano la macchina, fanno la prima vacanza, viaggiano, scoprono il paese, l'Italia, e lo percorrono in ogni dove, lo filmano per portarsi a casa queste cartoline che noi abbiamo appunto chiamato così in una sezione dedicata allo sguardo turistico, ecco, degli italiani. Ed è un'Italia che unisce i tratti tradizionali e arcaici a una modernità che arriva. È un'Italia felice che si filma i cambiamenti, pur inconsapevolmente, che sta vivendo, che adesso noi li vediamo a distanza di tempo come un paese felice che vede una crescita, vede con ottimismo il futuro, ma che anche evidentemente non pensa alle conseguenze di questa crescita che viviamo oggi. Sì, in sostanza noi potremmo veramente ripercorrere tutto fino a capire l'oggi, no, direi. È un invito alla riflessione. È un invito alla riflessione che non vuole essere nostalgico, anche se certamente una parte di nostalgia, perlomeno per le bellezze del paesaggio che abbiamo perduto, viene evidente. Ma secondo me la nostalgia va benissimo, io trovo che sia un'operazione straordinaria, cioè dare questa possibilità a tutti di vedere i nostri filmini di famiglia. Infatti le vorrei fare 500 domande, le vorrei chiedere anche come si mandano i video, se continuate a raccoglierli, se si possono mettere restrizioni, cioè tipo che uno può mandare un video ma dire però non voglio che venga fatto vedere, non so, ai miei parenti, se bisogna firmare delle liberatorie, come funziona, mi sembra una cosa bellissima. È una domanda un po' complessa, nel senso che noi innanzitutto raccogliamo le bobine originali e conserviamo quelle perché sono un documento storico e anche un bene culturale, certo. Quindi si tratta di fondi di film di famiglia, ma non solo, ci sono anche fondi di artisti, di cineasti indipendenti e underground che hanno utilizzato il formato ridotto. Noi siamo specializzati nel formato ridotto, questi formati non professionali che sono stati ampiamente praticati lungo il corso del secolo. Dopodiché il processo di archiviazione prevede che questi film vengano condivisi. noi li abbiamo raccolti sia attraverso l'attività ordinaria, quindi la gente ci scrive, ce li sottopone, sia attraverso delle campagne di raccolta che abbiamo svolto in tutta Italia lungo il corso della nostra storia, insomma, quindi che sono tuttora in atto, si possono ancora mandarvele. Si possono ancora mandare, certamente noi vagliamo, ecco, tutte le richieste che ci vengono fatte, perché la mole è talmente ampia che l'archiviazione dei materiali fisici è comunque molto impegnativa. Beh, sicuramente quello è un grosso problema, certo, è un grosso problema. E come l'affrontate sulla parte appunto di archiviazione? Noi abbiamo per lungo periodo raccolto tutto quello che ci veniva proposto, perché l'idea era proprio di creare questo corpus archivistico grazie al quale poi progetti come Memoryscape possono essere realizzati. In questa fase ci troviamo in una situazione in cui gli spazi fisici di archiviazione sono ridotti, e quindi invitiamo le persone comunque a contattarci, a presentarci il materiale che hanno a disposizione, e poi cerchiamo comunque di dare una risposta a tutti, sia in termini di archiviazione che in termini comunque di salvaguardia del proprio patrimonio. L'obiettivo è che comunque le persone, e questo è il primo risultato che otteniamo, possano rivedere i loro film, possano scoprire la loro memoria familiare, spesso anche ovviamente di generazione in generazione, sono spesso i nipoti che come dire, riscoprono le immagini dei nonni. Mandano i film dei nonni, certo. Sì. Mi sembra veramente un progetto bellissimo e consiglio a tutti di andare a farsi un giro, anche perché, se posso dire, c'è una grande differenza in come oggi noi facciamo riprese continuamente e le condividiamo sui social da come si facevano i filmini una volta, che era quasi un evento, era ok, bisogna fare il filmino del compleanno del nonno. Quindi complimenti. Sì. Grazie, aggiungo solo questa riflessione. Sì, questi film, al contrario di quello che si fa oggi, sono immagini parsimoniose perché esatto. erano costose, erano delle bobine brevi, quindi la ripresa era estremamente centellinata, e spesso la sua bellezza e la sua consapevolezza estetica anche viene restituita proprio grazie a questa, diciamo, cultura visuale che si fa in immagine. Quindi questo è assolutamente un dato, e in più è cinema privato che oggi diventa pubblico attraverso la piattaforma Memoryscape, ad esempio, ma al tempo era veramente privato, non era il film quasi pubblico che si fa oggi per essere messo sui social network o su YouTube e quindi per partecipare, diciamo, con la propria immagine che è già pubblica, nasce pubblica, no? È un'immagine privata, quindi c'è questa Certo, che è fondamentale. Grazie molte. Allora, grazie, invitiamo mille. Tutti ad andare a vedere queste memorie, Memoryscapes, cinema privato degli italiani online. Grazie a Paolo Simoni, c'è la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. C'è un appello che l'Istituto Mario Negri, insieme a 61 organizzazioni internazionali che rappresentano pazienti, cittadini, operatori sanitari, sindacati, organizzazioni di interesse pubblico, ha sottoscritto per sottolineare l'importanza del finanziamento pubblico alle attività di ricerca e sviluppo in risposta all'attuale pandemia. Un appello perché appunto ci sia attenzione agli investimenti, trasparenza e poi ovviamente per tutti i cittadini la possibilità di accedere alle cure che verranno individuate contro il Covid-19. Allora, di tutto questo, dell'appello, ma anche di tutte le preoccupazioni che girano intorno al mondo della ricerca in questo specifico momento, parliamo con Viviana Galli, coordinatrice della, e qui il nome è complicato, buongiorno Viviana. Buongiorno. Allora, European Alliance for Responsible R&D and Affordable Medicines. Insomma, che cosa fate voi a Bruxelles? Esatto. Noi siamo una coalizione di organizzazioni organizzazioni di pazienti, di consumatori, ma anche organizzazioni che si occupano in generale della salute pubblica e che collaborano insieme per cercare di migliorare le politiche di accesso ai medicinali in Europa. Noi lavoriamo sia a livello nazionale, in Italia per esempio lavoriamo insieme all'Istituto Mario Negri, ma anche Altro Consumo, Medici Senza Frontiere, a livello europeo, ma anche a livello globale, perché alcune questioni sono logicamente legate a tutte delle questioni internazionali. Ok, allora in questo specifico momento storico voi state insistendo su alcuni punti, no? Il primo dei quali forse potremmo dire quello dell'introduzione di clausole di interesse pubblico, meccanismi di regolazione dei prezzi futuri dei medicinali per l'erogazione dei fondi pubblici a chi fa la ricerca. In sostanza, l'Unione Europea dà dei fondi per la ricerca, sarebbe giusto che ci fossero poi delle garanzie sul ritorno di questa ricerca. Esattamente. Negli ultimi mesi, specialmente durante questa pandemia, abbiamo visto l'erogazione di importanti investimenti pubblici nella ricerca per possibili medicine, vaccini per il Covid. E questi investimenti provengono da governi, quindi da enti pubblici, dalla Commissione europea, ma anche da fondazioni. E quello che noi domandiamo è proprio che per garantire l'accesso alle cure e dei prezzi equi vengano stabilite delle clausole di interesse pubblico. Fin dall'inizio? Cioè la richiesta è che siano inserite fin dall'inizio? Sì, dall'inizio, perché non si può aspettare che poi un medicinale arrivi sul mercato ad un prezzo esorbitante. Questo nel caso del Covid, ma anche nel caso di altre medicine. Noi lavoriamo su queste tematiche da anni e queste clausole possono definire vari criteri per la modalità di ricerca, per l'accesso e il riutilizzo dei dati, ma anche per i brevetti e le licenze, o anche inserire dei meccanismi per la definizione dei prezzi. E, ma senta, quello che noi... Mi sembra encomiabile il lavoro che fate e la ringraziamo per questo. La cosa che le volevo chiedere è, mi sembra un po' il minimo introdurre delle clausole di interesse pubblico, nel senso che si sta dicendo i soldi vengono messi dal pubblico e poi diventano privati, perché coloro che fanno le ricerche poi si possono tenere il brevetto del vaccino del virus, così per fare un esempio. Quindi mi chiedo come mai è così difficile introdurre queste clausole che mi sembrano veramente il minimo. È interessante questo commento, perché quando si parla invece con rappresentanti della Commissione Europea, ma anche con rappresentanti del Ministero della Salute o il Ministero della Ricerca a livello nazionale, incluso il Ministero italiano, ci sono molti ostacoli che noi troviamo per l'introduzione di queste clausole. Prima di tutto perché il pubblico, il settore pubblico pensa sempre che il loro contributo sia minimo. Allo stesso tempo è comunque un contributo pubblico che viene dalle tasse dei cittadini. Quindi quello che noi domandiamo è che venga utilizzato al meglio e che ci sia un ritorno proprio per i cittadini e per la società in generale. E anche c'è un po' di paura in alcuni governi e in alcune istituzioni di fare un dispiacere all'industria farmaceutica, che in molti paesi è un'industria molto importante economicamente. E poi c'è un'altra questione, certo, che è collegata a quella che diceva Carlo, che sembra impossibile che non sia così, però insomma voi state insistendo anche sulla questione della trasparenza dei meccanismi di attribuzione di questi finanziamenti, che altrettanto non è trasparente. Sì, assolutamente. Durante la pandemia molti dei finanziamenti che sono stati erogati in realtà sono stati dichiarati, perché tutti i paesi vogliono diciamo migliorare la loro immagine in questa situazione. È però molto difficile anche per noi organizzazioni che cerchiamo di difendere l'interesse pubblico di veramente monitorare tutti i fondi che vengono erogati e a chi vanno. Un esempio può essere che un'azienda farmaceutica che in questo momento sta facendo ricerca su un vaccino contro il coronavirus, riceve per esempio dei milioni di euro dal programma di ricerca europea Orizzonte 2020, poi riceve altri finanziamenti da un programma di ricerca nazionale tedesco, da un programma di ricerca nazionale italiano, da un programma di ricerca nazionale degli Stati Uniti. È molto difficile monitorare tutti questi investimenti e dividere le percentuali, immagino, certo. Esatto. Perché come sempre quando sono soldi pubblici, perché quando sono soldi privati uno prima di metterceli dice cosa, che percentuale mi dai in cambio. Ma volevo approfittare della sua presenza, volevo farle una domanda: se dovesse uscire il benedetto vaccino del virus, che cosa succederebbe? Nel senso, sarebbe di tutti, sarebbe di chi l'ha trovato? Come si fa a vaccinare 7 miliardi di persone, a produrre 7 miliardi di dosi o addirittura 14 miliardi se bisogna fare anche il richiamo? Allora, ci sono state varie dichiarazioni ad alto livello politico per avere un vaccino di tutti. La domanda sì. È come possiamo assicurarci che questo davvero accada, ed è anche per questo che noi vogliamo queste clausole di interesse pubblico, perché almeno dal punto di vista degli enti erogatori si comporterebbero come dei veri azionisti e investitori nell'industria farmaceutica e richiederebbero un ritorno, non un ritorno monetario, ma un ritorno appunto di disponibilità, di accesso, di prezzi equi. Tutto dipenderà in realtà da chi sarà, quale sarà l'azienda farmaceutica che troverà questo vaccino o queste terapie. Chiarissimo. Viviana, noi dobbiamo però lasciarci purtroppo, ma ci voglio tornare su questo argomento. Speriamo che lo trovino, diciamo così, tra virgolette, i buoni e che si possa condividere. Appuntamento a presto con lei, Viviana Galli, che è in collegamento con noi da Bruxelles. Buon lavoro, adesso c'è GR24 e torniamo subito dopo. Si può fare. Ciao, siamo le radio italiane, tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E non solo la musica ci può far fare nininni nananna, ma anche magari un calice di bollicine. Buongiorno a Maurizio Zanella, presidente di Cadel Bosco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Insomma, vogliamo parlare con lei di bollicine, ma non solo, ovviamente delle possibilità che offre questa app che avete messo a punto, che si chiama Troviamoci, no? Quindi uno si geolocalizza e trova intorno a sé ristoranti e ovviamente accompagnati da una buona bottiglia di vino della Franciacorta. Come funziona? Esattamente come ha descritto, per cui geolocalizzandosi uno trova vicino, io li chiamo i luoghi golosi, dove c'è unisce, la possibilità, no? L'utile al dilettevole. Esattamente, la possibilità di trovare dei luoghi che fanno una qualità importante, non solo dedicata al vino, ma anche alla nostra capacità gastronomica. È un piccolo concreto supporto a un mondo che è stato un po', diciamo così, bistrattato dagli ultimi eventi, nel senso che hanno avuto 3 mesi di chiusura forzata e la ripresa non è stata, diciamo così, pianificata nel migliore dei modi. Eh sì, è un po' difficile anche per, immagino, per i ristoratori capire come è meglio aprire. Io ho visto le misure più diverse in questi giorni, chi ha interpretato in un modo, chi in un altro, chi ti sanifica tutto, chi invece è un po' più lascia andare. Sicuramente con questa vostra proposta, con questo app, c'è anche una selezione, immagino, e questo può, come dire, anche rassicurarci, perché comunque ci siamo in questo periodo dedicati, no, a ordinare sul telefonino senza conoscere neanche i ristoranti dai quali ordinavamo, magari. Sì, o forse non sapevamo nemmeno dove e a chi chiedere, perché non c'era un elenco di chi, rispetto a tutte le difficoltà, si era tirato sulle maniche e aveva tentato comunque la strada dell'asporto o del delivery, mentre prima veniva fatto solo da certi utenti, certi locali, la cosa poi ha iniziato ad aprirsi anche su locali estremamente qualificati, e però non c'era la conoscenza da parte dei nostri estimatori di chi fosse e chi facesse quel servizio, per cui con questa app ci sono appunto tutte le possibilità da chi fa delivery, da chi fa asporto e da chi ha riaperto, perché nel frattempo qualcuno, come diceva giustamente lei, ha aperto i battenti con regole ancora non molto chiare. Nello specifico di chi consegna, appiattisce un po' la qualità, non saprei come dire, cioè ovviamente quello che ci viene consegnato a casa è di ottima qualità magari, ma arriva in modo diverso, cioè sembra tutto un po' diverso, un po' più Credo che manchi soprattutto la convivialità, cioè spesso si va al ristorante sì per nutrirsi, ma ci si va soprattutto per altri motivi, per stare assieme, per frequentare, per vedersi, per incontrarsi, e credo che il fattore convivialità è quello che ci sia mancato di più, ma soprattutto, come argutamente osservava lei, una cosa è trovare un piatto servito in una certa maniera, la giusta temperatura, presentato bene, è una cosa ricevere un pacchetto. Però ci sono alcuni esercizi, quelli più, diciamo così, tendenti a valutare e a valorizzare la loro produzione, che addirittura mandano a casa il proprio personale. Diciamo quasi come un maggiordomo, sono pochi e spiattano, riscaldano, sono pochi, però ci sono anche coloro i quali riescono a fare un servizio quasi come se fosse da loro. Ma un maggiordomo con la mascherina, speriamo. Sicuramente. E coi guanti, ahimè, non di cotone. Che brutta. Giusto. Immagine. Senta, il guanto di latte. Ma le volevo chiedere una cosa. Le volevo chiedere una cosa, approfittando della Franciacorta e del fatto che a settembre ci sarà la vendemmia. Che cosa si prevede per questa vendemmia di settembre? Diciamo, in termini qualitativi è un po' presto parlarne, perché c'è stata la fioritura proprio in questi giorni, sta finendo la fioritura e, come forse sapete, esattamente 100 giorni dopo si vendemmia, per cui sappiamo già quando vendemmieremo. Però non sapremo. Ma dal cosa punto di vista, diciamo, dei lavoratori, nel senso che noi per ci immaginiamo questi grappoli d'uva schiacciati dai piedi. Io parlavo del fronte quantitativo dell'uva, mentre giustamente lei sottolinea quello più inerente ai momenti odierni. Fino a 10 sì. giorni fa eravamo molto preoccupati, perché c'erano ancora le chiusure delle frontiere e non erano stati aperti questi corridoi verdi, che invece sono stati aperti recentemente, e credo che questa preoccupazione, che era enorme da parte nostra, perché in Franciacorta si può vendemmiare per legge unicamente a mano, per valorizzare, quindi sono vietata, certo. È vietata la vendemmia meccanica, e quindi eravamo molto preoccupati. Quindi vengono gli stranieri a fare la vendemmia, perché un po' purtroppo, come per i pomodori. Dico io purtroppo o per fortuna, anzi forse metterei prima per fortuna e poi purtroppo. Purtroppo è legato al fatto che ci mancano quello che avveniva tanti anni fa, cioè i pensionati e gli studenti italiani che per tradizione facevano questa cosa. Poi per le varie leggi sulla sicurezza sul lavoro, sull'accumulo sulle pensioni, tutte queste storie, purtroppo gli italiani sono andati via via diminuendo, lasciando spazio a degli stranieri che però non sono di grande forse qualità. Forse a settembre potrebbero essere tutti studenti italiani, se le scuole non riaprono li mandiamo tutti a vendemmiare. Se ne hanno la forza, perché quelli che vengono e che non ne hanno, come dire, l'uso e l'abitudine, dopo uno o due giorni se ne tornano a casa, purtroppo. È faticoso, me lo ricordo, perché io sono stata tra quelli che l'hanno fatto nei tempi dell'università. È molto faticoso. Ma chi usa l'app Troviamoci poi è tenuto a usare anche, insomma, a ordinare anche un Cadelbosco? Assolutamente no. Assolutamente no, lo spieghiamo, ma non è assolutamente necessario. Va bene, allora grazie molte Presidente, ricordiamo l'app, si chiama Troviamoci e ci geolocalizza e ci dà indicazioni su chi è aperto, cosa fa, delivery, aperto ristorante e qualche consiglio magari anche sul Cadelbosco, questo poi non so, vedremo. Grazie molte, grazie molte, buona giornata. Buona domenica, grazie. Buona domenica a lei. Stefano da Roma ha chiamato per il quiz, o meglio, insomma, per indovinare il personaggio della settimana. Sentiamo Stefano prima della viabilità. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, secondo me, da come ho sentito il primo indizio, dovrebbe essere D'Agostino. È sempre aggiornato, questo era l'indizio. È sempre aggiornato, effettivamente lei si riferisce a D'Agospia. E che cosa c'è in settimana che le ha ricordato? E c'è stato, mi sembra, i 20 anni, 30 anni, esatto. Non so, una commemorazione del, dell'inizio, 20 anni dalla fondazione di D'Agospia. Vero, i 20 anni di D'Agospia. Sentiamo il notaio. Non era lui. Sebbene corrispondente, sempre aggiornato, in effetti D'Agospia è sempre sul pezzo e D'Agostino. Allora, grazie molte a Stefano da Roma, ora abbiamo la viabilità, tra poco vi diamo anche il secondo indizio. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Lasciati Carlo con l'impegno di dare il secondo indizio, lo diamo direi, secondo indizio? Assolutamente sì. Vai. Il secondo indizio, il personaggio che stiamo cercando, oltre ad essere sempre aggiornato, e questo è il primo indizio, si dedica alla sua attività con tutto se stesso, e questo è il secondo. Sono indizi che corrispondono un po' anche al nostro prossimo ospite, però non è lui il personaggio della settimana, è il direttore della Galleria degli Uffizi, Heike Schmidt, buongiorno. Buongiorno. Si dedica alla sua attività con tutto se stesso, è sempre aggiornato, sempre impegnato, direi che corrispondono un po' anche a lei, che questa settimana ha tra l'altro riaperto il giardino di Boboli, si pensa adesso agli Uffizi, ma la cosa che ci ha colpito è anche questa sua, queste sue dichiarazioni, abbiamo trovato sulla stampa, sul portare i musei in periferia, quindi non solo gli Uffizi, ma anche tante aree diffuse, se abbiamo capito, anche nelle vere periferie della città di Firenze, lo Smannoro per fare un esempio, addirittura si parla di Lastrassigna, ho sentito, insomma usciamo dalla anche galleria, perfino al Mugello, così quando uno va a vedere le moto poi dopo fa anche un salto al museo magari. Perché no, infatti abbiamo, questo non è solo un'idea, ma abbiamo già realizzato alcune mostre proprio in periferia, abbiamo realizzato le mostre anche per tutto il territorio toscano, però a Signa, per esempio, a Bagnoripoli abbiamo già avuto delle mostre, e questo ha funzionato, questo ha, ci ha fatto capire che l'arte può avere una funzione. Tuttavia, una mostra è temporanea e tipicamente anche più piccola di una presenza stabile, e poi molte periferie non sono nate come periferie, ma erano in passato dei piccoli centri, quindi hanno già qualche cosa su quale si può basare anche delle permanenze museali, e non solo museali, cioè è importante che questo si deve inserire tutto in una rivalutazione delle periferie che possono di nuovo, come era in passato, diventare piccoli centri. Questo, tra l'altro, andrebbe molto d'accordo con l'attuale situazione, cioè non creare, esatto, dei grandi assembramenti, ma diffondere le persone. Esattamente, questo infatti pochi paesi sono così preparati per questo come l'Italia, dove ci sono queste situazioni in periferia e anche nei comuni limitrofi che vanno rivalutati e attivati veramente, mentre in altri paesi magari torna al centro, cioè proprio di niente, e quindi bisognerebbe costruire da zero. Qui abbiamo già dei nuclei che vanno sviluppati. Guardi, è giustissima. Intanto buongiorno direttore, sono sempre felicissimo di sentirla, e sono molto d'accordo su questo discorso che vadano affinati, anche perché sappiamo che in Italia ci sono centinaia di piccoli musei o addirittura piccolissimi musei, e quindi è molto bello questa questione di fare rete e di attivarli, cioè già ci sono delle cose. E poi trovo straordinaria la questione di dire portiamo in periferia dei pezzi di cultura, perché in realtà la periferia poi è un concetto, nel senso che se metti lì un pezzo di museo, quello diventa il centro e Firenze diventa la periferia, e non c'è assolutamente un problema. Forse i centri vanno semplicemente resi più mobili, e quindi io apprezzo moltissimo questo suo progetto. Le volevo chiedere, oltre ovviamente a come sta andando, perché si parlava addirittura di Uffizi 2, di aprire invece un secondo mega museo più in centro a Firenze, e poi vorrei che ci raccontasse che cosa accadrà il 3 giugno, che è sempre più vicino, quando dovrebbero riaprire i musei, come torneremo ai musei, se potremo avvicinarci alle opere d'arte o meglio di no. Ecco, prima sulla questione Uffizi 2, secondo me è un po' limitante di dire facciamo un altro museo, magari un grande altro museo in qualche parte di periferia. Questo aiuterebbe sicuramente il centro, aiuterebbe quella periferia, ma non aiuterebbe tutte le altre periferie, perché esistono a 370 gradi ovviamente, e quindi con un altro mega museo, tra l'altro, non si sposterebbero soltanto i flussi e i vantaggi, ma anche tutti i problemi, quindi non vogliamo spostare il problema, ma risolvere, meglio di difletterle in tante unità più piccole, che tra l'altro stanno in rete tra di loro, e quindi proprio per questo diventano un organismo cittadino. E infatti spesso l'idea di fare un altro maxi museo vicino all'aeroporto, vicino all'autostrada, è guidata dall'idea che il museo avesse soltanto una funzione turistica, ma questo è sbagliato. Il museo ha anzitutto una funzione per i cittadini, e proprio per questo è importante che sia vicino ai cittadini, che assume queste funzioni per chi vive in un luogo, in una regione anche, e poi il turismo viene come seconda funzione anche, quindi lì naturalmente meglio se ci sono più musei che si dividono i flussi turistici. Per quanto riguarda le aperture, abbiamo aperto, come è stato detto, il Giardino dei Popoli giovedì, il primo giorno soleggiato dopo alcuni giorni un po' di pioggia, e quindi i verdi fiori erano praticamente rigogliosi, e lo sono anche tuttora, anche adesso. Quindi avete avuto tutto sommato fortuna, ecco, da quel punto di vista. E la bellezza stagione, forse era cresciuta. E la stagione, sì, senz'altro il giardino ha fatto anche bene di stare un po' senza troppi esseri gli visitatori. Umani. Sono venuti alcuni animali che normalmente non si vedono, ma comunque adesso è veramente un bellissimo equilibrio. Abbiamo alcuni centinaia di visitatori ogni giorno. Questo sembrerebbe poco paragonato a un anno fa, un giorno di bel tempo come oggi. Sicuramente avremmo avuto 8.000-10.000 visitatori. Oggi mi aspetto piuttosto 400, 500, 600 visitatori, quindi numericamente ridotti, eppure non c'è più questo vuoto che io ero tra le poche persone a vederlo, perché nessuno, a parte i giardinieri e i tecnici, entravano in questi ultimi 2 mesi e mezzo. Sembrava veramente una situazione di un altro pianeta, così vuoto, senza gente. Adesso è tornata la vita, e questo è importante, che anche il giardino con il museo all'aperto, perché non è soltanto un parco, è un museo a pieni affetti, con le sculture, le architetture, il paesaggio all'italiana, i vari giardini, grotte, eccetera. E quindi questo ora però è pieno di vita, anche con poche centinaia di persone, circa 90% fiorentini tra l'altro, quindi è proprio sono i cittadini di Firenze che tornano in questo cuore verde della città, e questa è una bella cosa. In futuro naturalmente torneranno i turisti, ma è importante di portare da questa esperienza un equilibrio tra l'utilizzo da parte della cittadinanza e quello dai visitatori che vengono da fuori. Settimana prossima, sempre gradualmente, apriremo Palazzo Pitti da giovedì, quindi a distanza di una settimana, con la riapertura della mostra sulle scarpe nell'antichità classica, le scarpe romane, ma non solo, anche il loro riflesso nella moda contemporanea e nel cinema, quindi ci sono i sandali di Liz Taylor, per esempio, una mostra che era già aperta, che ha già suscitato un grande interesse, però in bassissima stagione. Adesso la possibilità di, per quelli che non l'hanno ancora visto, è una mostra veramente per tutta la famiglia. Però, direttore, mi perdoni, ma come fate a tenere l'equilibrio tra cittadini e turisti? Cioè, adesso ovviamente ci sono più cittadini che turisti, è normale che sia così. Tra 6 mesi sarà un'altra cosa, però. Allora, uno strumento molto importante è attraverso la bigliettazione. Noi abbiamo dei abbonamenti annuali che naturalmente sono fortemente scontati, e questi devono, cioè, deve trapelare il messaggio: chi viene almeno 2 volte all'anno in un museo, allora ha diritto di uno forte sconto. E quindi con questo è finalmente così: con l'abbonamento annuale, più volte che si torna, il meno frazionalmente si paga, ovviamente, perché è stato pagato già per l'abbonamento. Abbiamo introdotto l'anno scorso l'abbonamento per le famiglie, 100 euro per 2 genitori, ma possono essere anche i nonni, zii e quant'altro, e poi il numero di tutti i bambini di cui la famiglia è responsabile, e quindi o il genitore più fidanzato, qualsiasi combinazione pensabile. Comunque questo è uno forte sconto, e con questi biglietti, tra l'altro, con questi abbonamenti, non soltanto si paga molto di meno, ma per giunta si saltano tutte le file, perché questo è anche un altro elemento importante: l'accesso privilegiato. Grazie a questo accesso privilegiato, chi vive in una città come Firenze potrà prendere questo. Abbiamo visto che già più di 1.000 famiglie si sono abbonate in questa maniera, tutte insieme, per i nostri biglietti annuali. Abbiamo più di 10.000 persone, la maggior parte sicuramente residenti a Firenze, che si sono abbonati ai nostri musei, e questo credo che sia un grande risultato. Anche appunto per la fruizione più dilatata, di non cercare di fare tutto in un giorno, ma di tornare più volte, infatti si può tornare lì immediatamente, considerando anche il privilegio dell'accesso prioritario. Quindi questo è sicuramente uno strumento molto importante, un invito a tutti di tornare ai musei e di avere questa funzione privilegiata, ma non soltanto questo, anche le attività didattiche, le attività didattiche per i bambini, ma anche le offerte per gli adulti. Questi in questo momento non sono ancora ripartiti, non era ancora possibile far ripartire le attività di questo genere. Stiamo aspettando i prossimi DCPM per vedere quando li potremo riprendere. Certo. Volevo ricordare ai nostri ascoltatori che il nostro direttore Schmidt nel 2019 porta avanti una campagna per la restituzione all'Italia e agli Uffizi delle opere sottratte dalle truppe tedesche sul finire della Seconda Guerra Mondiale, ed è anche riuscito a farsi ridare il vaso di fiori, ed ero curioso di sapere se in Germania le vogliono bene o se mica tanto. Allora, questo appello per la restituzione è una battuta, fiori, eh? No, ma è giustissima, perché senz'altro, questo appello pubblico che ho fatto il 1 gennaio 2019 di restituire questo quadro in Germania ha suscitato anche una grande discussione su questo, una discussione che era già in corso, ma ha dato nuova linfa a questa discussione. Infatti molti tedeschi sono fortemente a favore delle restituzioni delle opere d'arte rubate in maniera illegale alle famiglie ebree, alle altre nazioni, alle nazioni occupate dalla Wehrmacht nella Seconda Guerra Mondiale, quindi anche questa solidarietà in Germania ha fatto sì che era possibile di riavere questo quadro, che non era un quadro in qualche museo tedesco. In quel caso sarebbe stato possibile di risolvere a livello puramente diplomatico e politico, ma era nelle mani di una famiglia tedesca, quindi addirittura all'interno della Germania era necessario di convincere i detentori di questo quadro di volontariamente restituire questo capolavoro della pittura olandese del Settecento, che però si trova a Firenze dagli anni 20 dell'Ottocento, quindi è stato comprato all'epoca dal Granduca per Firenze, per la Galleria Palatina, per aggiungere alla collezione che è tra i più importanti al mondo della pittura olandese del 6 e del 700, insieme all'Ermitage di San Pietroburgo e al Rijksmuseum di Amsterdam. Firenze ha la collezione più importante al mondo di pittura olandese del 600, cioè questo è tra l'altro un esempio della internazionalità del collezionismo dei Medici e poi dei Lorena, e quindi c'era anche una forte volontà la maggior parte dei tedeschi di rivedere questo quadro a Palazzo Pitti. Forse ora, avendo il quadro esposto qui a Palazzo Pitti, ci saranno anche ora finalmente i turisti tedeschi che vedono quest'opera, perché anche i tedeschi non lo potevano vedere. Questo è vero, è una giusta considerazione. Ringraziamo. È una giusta considerazione. Ringraziamo molto di questa storia, e grazie per tutto quello che fa, direttore. E di aver restituito anche ai turisti tedeschi la possibilità di visionare questi capolavori. Abbiamo una piccola pausa, ci ritroviamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci di nuovo insieme, c'è sempre la possibilità di telefonare per il quiz, o meglio l'indovinello della settimana. Bisogna capire qual è il personaggio misterioso che è sempre aggiornato e si dedica alla sua attività con tutto se stesso. Diamo anche il terzo indizio, a questo punto mi dicono dalla regia perché è necessario e quindi lo do giustissimo, io. Giustissimo, giusto. È vai Laura. Puro di cuore, è sempre aggiornato, si dedica alla sua attività con tutto se stesso ed è puro di cuore. Questi sono i tre indizi con i quali potrete indovinare il personaggio della settimana. Ci auguriamo, come sempre però, comunque da domani lo troverete sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Si Può Fare, sulla quale troverete poi anche i consigli di lettura di Carlo, perché c'è qualche ascoltatore, hai visto anche tu, che chiede, sì, mi visto, ridite visto. Questo, e mi ridite l'altro. Pubblicati sul mio Facebook personale, che è facile da trovare perché è Carlo Gabardini. Benissimo, allora mentre siamo in attesa del prossimo ospite con il quale poi parleremo di viaggi, perché io sono un po' preoccupata su come si viaggerà, sono un po' preoccupata perché va bene, ho capito come sui pullman, però mi immagino gli aeroplani, io non so te come la vedi Carlo, però insomma... sono molto molto curioso, infatti sono molto contento di sentire qualcuno che ci spiegherà come avverrà, anche perché abbiamo letto di molte compagnie aeree che hanno detto se c'è il distanziamento, ovvero se dobbiamo lasciare la metà dei posti liberi, chiudiamo. E soprattutto vorrei anche capire se viaggiare tornerà a costare 3.000 euro come quando Laura ed io eravamo giovani. Sì, precisamente. E non erano euro, erano milioni. Erano milioni, giustamente. Allora, Francesca da Macerata intanto ci dice invece che cosa pensa lei del personaggio della settimana. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Francesca. Allora, buongiorno. Secondo lei chi è? Allora, secondo me è quel ragazzo di 17 anni che ha creato un sito di monitoraggio. Parliamo ovviamente del coronavirus, tanto ormai la tematica è costante. Ha monopolizzato tutte le nostre vite. Al quale sono stati offerti 8 milioni, ma lui li ha rifiutati per non approfittare. Era un sito web di monitoraggio dei contagi, presumo. Adesso ci sono andata. Comunque, la storia è quella, ma vuole provare a dire anche il nome? Sì, si chiama Avi Schiffman, credo Schiffman. Sentiamo un po'. Direi che il notaio ha tutti gli elementi. Non c'erano margini di dubbi ed errore. E brava, esatto, l'ascoltatrice che sapeva anche il nome. Schiffman. Bravissima, complimenti. La storia è la sua, rifiuta 8 milioni per il suo sito e ci è sembrato un gesto veramente... Anche perché se non sbaglio lui ha detto non voglio approfittare, un po' come per dire non voglio che in questo momento di virus, siccome faccio una cosa sul virus, allora ne approfitto. E quindi ha rifiutato 8 milioni. Secondo me un giorno se ne pentirà, però... Vabbè, però insomma, intanto il suo nome, vede, lo sa anche lei. Anche Francesca Macerata, esatto, sa come si chiama questo ragazzo e quindi credo che abbia un futuro abbastanza luminoso davanti a sé se gestirà bene questa situazione. E quando situazione. Se ne pentirà, signora, lei manderà metà del libro che riceve a Avi Schiffman. Complimenti Francesca, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ed eccoci qua a parlare di trasporto aereo, come avevamo anticipato Carlo, e abbiamo ritrovato un nostro ospite, Nazareno Ventola. Ti ricordi che l'avevamo già avuto, no, in collegamento con noi, l'amministratore delegato dell'aeroporto di Bologna? Buongiorno. Certo. Buongiorno. Avevamo parlato di aeroporti green all'epoca, adesso sì. Dobbiamo parlare di aeroporti disinfettati e sicuri. Cambiamo vero, un po'. Sembra un mondo fa, veramente, sembra un'epoca fa, l'ha detto già, hai parlato di epoca. Sì, abbiamo parlato l'altra volta di aeroporti green, ora parliamo di aeroporti sicuri per viaggiare. E intanto voglio dire una cosa subito, che è uscito un report dell'Agenzia Europea della Sicurezza Aerea insieme al Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, che ha detto che sostanzialmente è uscito il 21 di maggio, non ci sono al momento della realizzazione del report nessun tipo di evidenze che parlano di trasmissioni Covid sopra gli aeromobili. Quindi questo è un punto, è un fatto, cioè non abbiamo evidenze che ci siano trasmissioni di malattie sugli aerei, proprio perché gli aerei sono dei mezzi di trasporto, da questo punto di vista, molto più sicuri di altri. Però è strano, è incredibile, cioè magari andando in alto, non so, il virus si annichilisce. Esatto, diciamo che le procedure, sì, perché il sistema di aerazione degli aerei è un sistema che appunto con dei filtri particolari che proprio consentono la depurazione dell'aria. Questa è una cosa che non esiste in altri mezzi di trasporto, magari la gente non lo sa, ma mi perdoni, è importante. Mi perdoni, no, non ho capito una cosa, non ho capito se non ci sono evidenze, perché diventa anche difficile sapere che uno proprio si è contagiato in volo, oppure sì. Se sta dicendo che durante il volo è più difficile essere contagiati, nel senso che non ci si può contagiare dentro l'aeromobile. Entrambe le cose, diciamo, non ci si può, e forse diciamo è troppo, come dire, troppo definito. Un po' esagerato. Diciamo che ad oggi, per gli studi che hanno fatto e anche basati sull'esperienza del passato, anche legati a quando ci fu la SARS qualche anno, 2003, non ci sono evidenze forti di contagi imputabili al viaggio in aereo, punto uno. Ma il secondo elemento che dicevo, che comunque la tecnologia di purificazione dell'aria, di pulizia dell'aria sugli aeromobili è molto spinta e quindi rende l'aria all'interno degli aerei molto più sicura di quella che può essere dentro un mezzo di trasporto diverso. E però parliamo con lei, certo, anche di aeroporti, perché insomma la questione non sarà facile da gestire, con tutte le distanze da tenere, con tutte le sanificazioni da fare. Non so, mi viene in mente ad esempio le parti che adesso sono dedicate al commercio, lì magari dovrete metterci dei passeggeri in coda invece. Diciamo che finché i passeggeri saranno i numeri che stanno lentamente riprendendo, questo non sarà un vero problema, perché siamo passati molto alti e siamo pochi. Lei pensi solo per Bologna che normalmente avevamo circa 25.000 passeggeri al giorno, oggi ne abbiamo un centinaio al giorno in questo momento, quindi veramente c'è un solo volo al giorno per Roma ed è finita lì. Quando riprenderà con una dinamica sicuramente graduata, e ovviamente tutti gli aeroporti, anche noi, ci siamo attrezzati per far sì che i processi di imbarco e all'interno del terminal siano controllati, verificati e che sia mantenuto il corretto distanziamento. E poi diventeranno più lunghi? Saranno più lunghi questi tempi di controlli, distanziamenti? Direi di sì, ci sarà un allungamento dei tempi perché c'è il controllo della temperatura, bisogna al momento presentare un'autodichiarazione, certificazione in cui si dichiara il motivo del viaggio, poi chiaramente queste misure verranno auspicabilmente rallentate nel corso dei prossimi mesi, però certamente i passeggeri devono mettere in conto, e noi lo stiamo anche comunicando, che i tempi di imbarco ovviamente non sono quelli che erano possibili solamente 6 mesi fa. E certamente sarà un po' come fare un volo intercontinentale, esatto, nel senso che sapevi che dovevi comunque andare prima, c'era il controllo dei passaporti, qui adesso c'è il controllo. Però mi chiedo adesso, per un volo intercontinentale, prima era, mi sembra, 2 ore e mezza, si diceva, adesso volevo capire quante ore prima bisogna andare in aeroporto. Adesso poi, intercontinentale, a un certo punto conviene andare a piedi. Bravo. Il problema è che dall'acqua se non si cammina ancora sull'acqua. Comunque dicevo che l'intercontinentale penso che minimo tre ore e mezza ci vogliono, ecco, rispetto alle 2 ore. Un'ora in più bisogna considerarla per essere sicuri. Certo. Beh, e su certe tratte però diventerà di più? Inizialmente quello dipenderà molto dal punto di vista, da come verranno definite le regole per la nuova ripartenza, il costo. Perché è chiaro che, per esempio, sull'aereo, dicevo prima che l'aereo è il mezzo, punto di vista sanitario, più sicuro di altri mezzi di trasporto, però attualmente in Italia abbiamo delle regole di distanziamento che consentono un riempimento sugli aerei che per la maggioranza delle compagnie aeree non consente di volare in maniera, diciamo, sostenibile dal punto di vista economico. Questo è un vero tema, nel senso che l'Italia è l'unico paese europeo al momento ad avere definito queste regole, e quindi c'è un po' una simmetria. Però quindi il rischio è che noi ripartiamo un po' zoppi, ripartiamo con delle regole che sono più stringenti in Italia, meno stringenti in altri paesi, dove ripeto, l'Agenzia Europea della Sicurezza non ha dichiarato che bisogna avere un distanziamento, ha dichiarato che bisogna avere la mascherina, che bisogna pulirsi le mani, che non passa il carrello per andare a mangiare durante il viaggio, che bisogna ovviamente limitare i contatti, però non parla di un distanziamento, diciamo, prescrittivo. E questo può consentire alle compagnie di volare. Il carrello del cibo maniera... era la parte più divertente. Purtroppo bisognerà portarsi, come dire, avere un po' più di pazienza. Sarà orribile da pulire, immagino, l'aereo alla fine, pieno di briciole, di panini. Esatto, sì. È così. Quindi ci sono regole diverse. Questo fa sì anche che da un certo punto di vista in Italia, ne beneficeranno forse i treni? Sui viaggi brevi, sui viaggi interni brevi, probabilmente sì. È chiaro che poi, come dire, andare da Milano a Palermo, a Catania, in treno è un po' lunga. Anche da Bologna a Reggio Calabria. Quindi sicuramente sulle tratte, però già era un po' così, già il mercato era abbastanza diviso tra tratte di medio breve, insomma 300-400 chilometri, dove ancora il treno aveva un livello di competitività, oltre l'aereo, soprattutto il low cost, che offriva delle possibilità economiche accessibili a tutti. Questo era un vantaggio molto forte. Adesso vedremo se ci sarà un trasporto. Il vero problema, secondo me, per le persone, ci sarà ancora un trasporto aereo accessibile a tutte le persone, con dei costi accettabili. Questo è un vero tema. Perché, quello che ci chiedevamo era esattamente questo, e ci chiedevamo se riprenderà, perché al di là dei passeggeri e delle economie c'è anche una questione di frontiere aperte, chiuse, non si sa, si potrà viaggiare quest'estate? Questo è un po' imprescindibile. Diciamo che alcuni segnali di apertura su alcuni paesi ci sono, ho visto ad esempio la Spagna, la Francia stessa, la Gran Bretagna in questo momento in lockdown, quindi per adesso quando si arriva in Inghilterra ci bisogna fare 14 giorni di quarantena, quindi penso che sia difficile immaginare, se queste misure non cambiano, di viaggiare verso quel paese. Altri paesi stanno un po' aprendo a macchia di leopardo, questo è un po' un problema evidentemente per quel. Quindi diciamo che quest'anno probabilmente il viaggio al di fuori dell'Italia bisognerà capire veramente dove si vuole andare, sarà più facile viaggiare all'interno del paese, però alcune possibilità ci saranno, ma veramente le cose stanno cambiando di giorno in giorno, che per noi è difficile capire. E allora ci terremo in allora contatto. Allora ci risentiamo a luglio. Volentieri. Grazie molto e buon lavoro. Nazareno Ventola, l'amministratore delegato dell'aeroporto di Bologna Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. E come sempre a quest'ora della domenica parliamo di cose buone che si possono fare per l'ambiente, per tutelare la biodiversità. Ebbene, oggi è la giornata europea dei parchi e sono arrivate dal Consiglio Nazionale degli Agronomi Forestali a Si può fare varie storie da raccontare, di belle storie che accadono nei nostri parchi, e una di queste è quella del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, si chiama Progetto Pecunia, e ne parliamo con Silvia De Paulis, che è anche lei un agronomo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci è piaciuta la storia ci è piaciuto già a me il nome Pecunia, non so Carlo a te che impressione ti ha fatto, ma io quando ho letto Progetto Pecunia ho detto questo è molto carino. Ma soprattutto... soprattutto perché è subito legato all'inizio del progetto, che è l'associazione senza finalità di lucro, però il progetto è Pecunia. Sì, perché è Pecunia? Se volete vi spiego. Però se aggiungiamo non olet, certo, visto che parliamo di lana di pecora, certo, il non olet non va bene. Andiamo avanti, spieghiamo agli ascoltatori, prego. Il nome del progetto è Pecunia, era la dea della ricchezza e dell'abbondanza, e l'etimologia deriva anche dal termine latino pecus, bestiame. Sono due semplici informazioni, sono sufficienti a far comprendere quanto l'attività pastorale, in modo particolare l'attività dell'allevamento degli ovini, un tempo fosse sinonimo di prosperità. Quindi le pecore rappresentavano vere e proprie banconote. Un ricordo lontano, perché l'attività, la pastorizia nel mio pasto, che siamo nell'Appennino centrale, principalmente in Abruzzo, anche un pezzettino di Lazio e un pezzettino di Marche, e l'allevamento degli ovini si trova ormai da diversi anni a non essere più un'attività di reddito alto. Anzi, al contrario, è diventato un costo spesso. Allora, la lana, le pecore sono a triplice attitudine: carne, latte e lana. E la lana prima rappresentava veramente al momento della rosa, rappresentava soldi sonanti che entravano in azienda, soldi sicuri, quei soldi che permettevano all'allevatore di comprarsi il trattore nuovo, di fare il caseificio, rimodernare il caseificio, di comprare altri capi di bestiame. E poi con l'avvento Oggi invece con l'avvento delle fibre industriali, le fibre sintetiche, la lana ha perso sempre più di valore, ma soprattutto la cosa che ha messo in moto un ente parco nazionale che è deputato alla conservazione e alla tutela dell'ambiente principalmente, oltre alla valorizzazione del settore agrotecnico, è che la lana è diventata uno scarto, un rifiuto, anzi un rifiuto speciale, come tale deve essere smaltito, quindi con ulteriori costi per l'allevatore. Già da quindi se uno non usa, se uno non usa la propria lana, addirittura questo diventa un costo. Un costo, e in più, esatto, l'altra cosa che abbiamo scoperto è che la tosatura è difficilissima, cioè non è una cosa che può fare chiunque. Addirittura abbiamo letto che c'è un gruppo di neozelandesi che sono campioni mondiali, che girano a tosare le pecore di tutto il mondo. Allora, prima la tosa veniva direttamente da parte degli allevatori, con un rito e una metodologia, proprio perché la lana aveva valore, era tutta la famiglia impegnata nella tosa, e quindi le pecore venivano mandate nei pascoli più puliti, venivano tenute all'asciutto, perché la lana bagnata assolutamente perde di valore totalmente, perché poi fermenta, essendo un materiale vivo, e tutta la famiglia si impegnava a fare una tosa molto attenta, proprio perché aveva valore. Con la perdita del valore della lana, dove il mercato non l'ha più richiesta, si è persa anche questa abitudine di tosare. Quindi, ed è per questo che tosatori neozelandesi, ma anche diciamo pugliesi, lucani, adesso si stanno attrezzando per tosare le pecore. Però ecco, attualmente quando noi siamo intervenuti come parco su richiesta degli allevatori, questo è importantissimo, che non è stato un progetto che ha pensato il imposto, parco, un processo di ascolto che noi facciamo sempre, noi tecnici, noi agronomi dell'ente parco e anche gli altri tecnici del parco si mettono sempre in ascolto, parlano con gli allevatori e loro ci hanno sollevato questo problema. E insieme abbiamo costruito questo progetto, questo percorso, un percorso lento perché è partito nel 2010, ora siamo nel 2020, facciamo 10 anni di questo progetto, è stato anche un po' un patto, una sfida, abbiamo provato con loro a ridare valore alla lana, da subito ci siamo resi conto che dovevano unirsi e far unire gli allevatori, vi assicuro, non è una cosa facile. Perché nel passato le cooperative, i consorzi di produttori e poi in genere, perché l'allevatore pensa sempre che il suo prodotto, del suo allevamento sia meglio degli altri, quindi mettersi insieme, insomma, non è facile. Quindi il parco ha fatto molto da facilitatore, in questo ringrazio il mio collega, lo zoonomo, il dottor Luca Spillaci, che si è impegnato molto su questo progetto. Però abbiamo l'ultimo minuto. Certo. Quindi le avete rimessi, avete convinti a stare insieme, a mettere insieme le forze, a rendere quindi remunerativo quello che stava diventando un costo per ciascuno, allora, di loro. Allora, la prima cosa, abbiamo dovuto fare un lotto unico di lana, cioè per poter essere competitivi sul mercato dovevamo costituire un lotto unico. E abbiamo costituito un centro di stoccaggio e cernita qui nel parco, dove gli allevatori conferiscono la lana secondo regole di tosatura che abbiamo scritto precise, in cui dovevano tosare e raccogliere la lana in modo sano. E così avete, no? li abbiamo portati a Biella. Biella è la capitale della lana, dove un consorzio lavora anche piccoli lotti, e hanno ricevuto la nostra lana. Abbiamo messo su Pullman tutti quanti gli allevatori, gli abbiamo detto: andiamo a vedere la vostra lana come viene lavorata, e così capite anche che cosa c'è bisogno a Biella, in sostanza. Allora, Silvia De Paulis, la ringraziamo molto, le facciamo tanti complimenti per questo lavoro e per questo progetto Pecunia, a voi del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Carlo, noi siamo giunti al termine anche di questa puntata. Assolutamente sì, quindi abbraccio tutti. Abbracciamoci forte a distanza, ci ritroviamo sabato prossimo alle 8.30 con Si può fare. I ringraziamenti come sempre a Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari in regia, Carmelo Lauricella, da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto e appunto a sabato prossimo.